Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Eccitazione, piacere, peccato, le linee della passione, vista, udito, gusto, tatto, olfatto, immaginazione, le linee della sensazione, abuso, sottomissione, feticismo, le linee della deviazione, scambio, tradimento, ricatto, le linee della depravazione. Ognuna di queste linee ha origine in vertici differenti della nostra umanità, ma tutte convergono verso un solo punto comune. Il sesso. Il sesso. È il centro del mondo, il motore di storie e battaglie, fonte di appagamento di frustrazione, fonte di morte, fonte di vita. È l'arte di controllare la mancanza di controllo. Il crononauta si denuda, unge il corpo di oli aromatici e si congiunge alla musica che ruota intorno al sesso. Lo descrive, lo racconta, lo esalta. Anno dopo anno, canzone dopo canzone, scopata dopo scopata, in una raffica di scatti col flash. Abbassate i pantaloni. Comincia Polaroid. Ah, Fanny Uber, bene. Venga, entri, maggiore. Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. Augusta, Georgia. James ha 16 anni, a 7 faceva il lustrascarpe, a 10 il tira dentro davanti a un fetido bordello di vecchie puttane alcolizzate. Ma ora ha una pistola in mano e vuole tutti i soldi della fottuta cassa. Fuori dal negozio il suo amico Bobby fa il palo. Passa una figa, Bobby si distrae, arrivano gli sbirri. Dentro tutti e due. Per fortuna, diciamo noi. Senza quei giorni lenti e vuoti nella cella del riformatorio, non avrebbero scritto questa canzone. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I wanna get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Machine. Get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, sure as your bone, get it together, right on, right on, get up, get on up. Machine. 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Conoscersi un po', parlarsi un po', è utile, sai, purtroppo io non posso concludere presto. Son timida, è vero, con pudore, ma è inutile che tu dica che tipo di immagine rischio. Sto ferma se vuoi, brutale, no, non ti assalirò, ti prego. Ricordati che non sono un maschio. Oh no. Sei pura, non va, ti sembrerebbe un incesto, un incesto, un incesto. In preca se vuoi, pesante vai, stupisci, mi dai, comincia. Fa presto, fa presto, fa presto. Con due giarrettiere, meglio nere, nuda mai, bollente. Infedele, vorace, impaziente. Sto ferma se vuoi, brutale, no, non ti assalirò, ti prego. Ricordati che non sono un maschio. Londra, Bethlehem Royal Hospital. Un ragazzo di 22 anni tiene in mano una busta gialla. Sopra c'è scritto il suo nome, Georgios Kriakos Panayotou, ed è altamente confidenziale. La busta contiene il risultato di un test. Il ragazzo la apre, scorre con lo sguardo fino alla riga che gli interessa, richiude la busta e butta fuori con un solo respiro tutta l'aria che ha in corpo. Poi si mette a piangere. Il test è andato bene. Il ragazzo non è sieropositivo, è George Michael. Girls that you've done, this little thing.

una settimana. Tacoma, prigione federale. Gerard Arthur Friend scrive su un fogliaccio le sue memorie. Ha tutto il tempo che vuole. Si è beccato 75 anni di reclusione per il sequestro e lo stupro di una bambina di 12 anni. Ma in quello che scrive non c'è un briciolo di pentimento. C'è solo eccitazione, compiacimento, follia. Perché Gerard sa che lo rifarà. 27 anni dopo, quando uscirà da lì per buona condotta. Questa volta la bambina di anni ne avrà 14, tornerà da un concerto rock e si chiamerà Polly. Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blow. Torch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, have been told. Promise you, have been true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. seed. Let me clap dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got to know. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Polly said. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. 1995, Centro Safa Palatino, Roma. L'idea di Gianni al suo debutto come regista è molto semplice: una scenografia con le quattro stagioni, una piscinetta, una conduttrice navigata e 100 fighe, non necessariamente maggiorenni, alle 2 del pomeriggio. Stop. Boom. Cult. Basta aggiungere due giochi e un po' di musica e il fenomeno epocale è servito. Dentro puoi ficcarci di tutto: uno spogliarello, Paolo Bonolis e Ambra Angiolini che canta "Non voglio uomini col c***o piccolo". Più facile di così. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Back on, honey. Any way. fuck out of here. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Sempre in Italia, ma leggermente più a nord. Ti raserò l'aiuola. 75 Rockefeller Plaza, New York City. Studi della Atco Records. Che c***o gli ha preso a Brian? Il nastro gira, la band ha gli strumenti in mano, i microfoni fischiano, la vibrazione dell'overdrive graffia l'aria. Insomma, dannazione, tutto è pronto per registrare. Ma Brian è impalato lì, con un foglio bianco in mano che fissa il muro da un'ora, come una maledetta statua di cera di Madame Tussauds. A un certo punto sbarra gli occhi e la sua mano comincia a scrivere. Scrive, scrive, scrive. E riempie due pagine. Si ferma. Brian si risveglia e dice: ho visto il fantasma di Bon Scott e mi ha dettato questa. istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. 1967, Los Angeles, California. Jim è di nuovo fatto come un antilope e non vuole uscire dalla stanza di quel pulcioso Lincoln Motel sulla 210. Però deve rispondere ad una telefonata importante. Il grande capo della Buick vuole la loro canzone nello spot della sua nuova Skylark V8 da 210 cavalli, l'ammiraglia. È disposto a sganciare $75,000 subito, in contanti, più una Skylark in regalo per ogni componente della band. Quella di Jim, bianca con gli interni rossi, è parcheggiata proprio davanti al motel. Jim esce in mutande, con la barba lunga e una mazza da golf in mano. Guarda Ray con l'orecchio poggiato alla cornetta nel gabbiotto della reception. Gli urla qualcosa tipo: sai cosa me ne faccio della sua cazzo di Buick? Guarda! Poi comincia a sfasciare l'auto a colpi di mazza. Che se li ficchi nel culo i suoi 75.000 verdoni, aggiunge, prima di richiudersi in camera. E quindi no, nello spot della Skylark non ci sarà Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Casa Bianca, Washington DC. Tom è un po' teso, gli sudano le mani. Sì, ok, 40 anni di carriera, i 100 milioni di dischi venduti, ma cazzo, lui è pur sempre il figlio di un minatore gallese e quello davanti a lui è Bill Clinton, il presidente degli Stati Uniti d'America. Per fortuna che accanto a lui c'è sua moglie, Melinda, 45 anni insieme, che nonostante i tour, i tradimenti, le fan che lanciano mutande e reggiseni, sarà ancora una volta lì, al suo fianco, a tenergli la mano, a dirgli: vai Tom, stendili tutti. E così Tom sveste i panni del tranquillo marito di provincia e diventa quello che tutti si aspettano, una sex bomb. Intorno al sesso, musica, arte, storia. La nostra sessualità ci appartiene e ci descrive, racconta le nostre paure e i nostri desideri, crea relazioni interpersonali, prolunga la vita delle specie, costruisce famiglie e ne distrugge altre. L'espressione della nostra sessualità, quando non viola la libertà degli altri, è e deve essere libera. Un diritto limpido e inviolabile per tutti, ovunque, per sempre. Perché servono tutti i colori per realizzare un grande scatto di Polaroid. Polaroid, istantanee di storia della musica, torna sabato prossimo. Sabato prossimo. Alle 19. Su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Alisei. Voce Lucilla. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Entonai. Per altre repliche e altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot.